ma non importa, tutti lo vogliono indossare. E la sua rabbia è un'aquila che ora vola in cielo, e questa sera tutti la guardano andare su. È così sicura e niente, è così sincera. I'm not afraid to die.